la città di Sassari sta mangiando, tutti a mangiando. Sono spazio un bel cazzo, un bel spazio più di... quasi oltre i 2000 euro di luce. Quasi? Oltre 2000, perché non ha cambiato il contratto. Erano i buchi da anni. Cioè le bollette, con poco tempo, anche 3 mesi in ritardo, comunque. Senta segnato, cani gassagnato, non ci parla da Deo, tanto a Deo. Sono su 2000 euro abbiamo di musciacare di loro, non c'è che da Eddy. Perché è la luce che ci vedono in 2 mesi, in 3 mesi, che si risparmia, un cazzo, non è buttito. Posso? Ogni 3 mesi la volta arrivava. C'era un risparmio, perché la prima volta ci ha fatto pagare 10 euro, so poco. E poi ho fatto tutta la bolletta assieme, si budi. Una da 50, una da 190, una da 170, poi una da 600, va, stanno eliminando. Ma quello lo trovavo in Dio, se no era stato un casino. Ciao Luca. Un po'. Sono con il mio 5 con il suo caos, ma come sto scendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sono parecchio vecchio, eh. È troppo forte, abbassa. Eccolo qua. Adesso va bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aspetta un attimo. Così metti il coso a 0. Adesso così. Meglio fa così di proprio. Ehi, ho fatto un visto, faccio solo di moto, stanno andando lì in corso, ma, corso ricco, corso ricco. Ehi, a così muoio. Ho fatto un visto, faccio solo di tutto macuccato lì. È un freddo, il giorno prima è macuccato. Ok, sto usando la capsula quella che va a Temi, con la saldatura. Ti si è lamentato, dovuto togliere la saldatura perché quelle lo sai che sono saldate, non sono vergini le capsule, sono tutte da un circuito. Ho staccato lo stagno, l'ho rimesso nuovo, ho fatto i contatti e è a posto. Cazzo, mi do una montagna e salta due a buffo. Ma sono qua, aspetta. Qui sicuramente tanti, chiamano di saldi pulite, buffo, quasi di due dai. Forse mai ti sei sbagliato capsule, che tu hai provato. Cazzo, non dico io. Ah, c'ho a Montoni. Quello vabbè, diciamo che quella là, che c'ho il buchettino al centro. Quella vabbè no. Ma l'altra, una montagna di stagno. Ehi, stacca gli altri, ho detto, ho fatto anch'io così, la stessa cosa, attaccato lo stagno. Sono capsule che sono attaccate al non stampato, capito? E ci sono i puntali, non sono capsule vergini. E quindi l'ho staccato lo stagno e ho fatto i contatti nuovi, capito? Sono verde di colore quelle che ci sono io, insomma no, sono diverse, sono verde di colore sopra dove sono i contatti. Cosa ne busso, una paletta lo stagno? Ho messo una paletta io lo stagno, che cazzo c'è? Mica l'ho messo lo stagno, lo stagno era già la prima. Va bene, va bene. Non so, sono fatti mio, mi ha detto una cornetta, non mi ha attaccato io. Esattamente, Alice, perché io ho fatto la stessa cosa. Secondo te cosa ho fatto io? Per questo microfono qua sono andato a staccare cosa dalla cornetta. Ce l'avevo, gli ho staccato lo stagno, ho contestato il tono e poi gli ho messo lo stagno giusto giusto. E basta, come se funziona. Cioè, lo vedi che ha verifica, cioè, non è che lo sono aspettato. Ma dopo, io ora ti sono le cuffie, attaccate e fischia, guarda. Mezzo chilo di dentro che si è attaccato, ho preso lo staccato con la spirottaglia e aveva avvisato i capelli suoi. E che ti faceva la capsula, c'era questo microfono qui e va no. Io invece ho dei contatti, invece questo è verde. Prova le lapro, ora vediamo un po' se va, se funge. Siamo a punti, già, c'è la differenza. Senti questo, non lo so. Come pompa? Ma probabilmente pompava di più. C'è un abisso, c'è. Vabbè, io sono un apparecchio 23 canali, un somma è capito usando, un TS5024, dimmi. 24 canali, non sto usando un bracchino quello con l'altro. Non ho sentito stacco e fa pa, pa, pa. Guarda, aspetta, senti. Ma c'era un bracchino male questa cosa. Avanti, chi è? Io solo che c'è il che, guarda la chiamata, guarda. Ah, ecco. Si è arrivato, 23 canali questo, 24 canali, è un sommercamp. Antico, tutto in legno. Ma tu vuoi? No, rimane un amore, non è mio. Ma cioè, vabbè, diciamo che va bene come radio, ma è, come hai detto, è molto molto superiore. E dove la provo, dai? Perché prima di montarla mi segno il più almeno qua la capsula. Così lo faccio altro, che se non va bene ripeto la mia. Lo riconosci subito almeno che è collegato alla cosa, alla massa interna. C'è un filino di tampato che è collegato alla massa. Lo riconosci subito. Vabbè, comunque me la segno lo stesso, non è problema. Lo so che c'è una specie di filino, aspetta. C'è, c'è, non ti preoccupare, non ti c'è. Non va via, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, va. Fischia, va. Se sapevo come ci ha fischiato. Allora, ecco. Adesso qua, guarda così, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, fischia dentro. Già amplifica già quante capsule la voglia. Devo diminuire, se no non ce la faccio. Guarda, fischi, non ce la fa. Iaia, manco un attimo va a controllare la pentola. Arrivo subito, vai, salve. Averio. Hola. spostato, ero sul 12. E forse ti sentivo sul 12 io anche dall'altra parte. Vabbè. Siamo vicini. Siamo vicini. Mi sto controllando un po'. Stazionaria. A vedere com'è. A vedere come siamo messi. Come li passo il dito che passa un dito, fa una specie di musichetta, di rumorino. Dove l'hai preso, sta? Ti ho capito, Gianlu. Dove l'hai preso? A Bricomen? A Bricomen, lì a... dopo le punti, quello grande. Non so dove, ma dopo nel reparto elettricità... Beh, è normale, no? Ho fatto elettricità, dove c'è di tutto. No, si compra bene. Sì, ma se io devo andare a cercare quella cosa lì, dove devo andare? Dove c'è le cose della corrente, dove sono cavi elettrici, roba di spine, queste cose qua? Esatto. Esatto, li trovi di tutto. Sull'elettricità trovi tutto, ci sono queste piastre. Queste piastre proprio per la massa. Giampaolo, Claudio. Cosa? Cos'è Giallo? Stavo rispondendo a Giampaolo, dice che aveva il cardino. La spina, dice, fasciata di fascia, povera. Comunque, sì. E come sono andato qua? Vabbè, io comunque non l'ho comprata. Ho comprato solo la barretta e basta. Due gommini ce li avevo, fatti fuori al muro. E basta, la barretta l'ha già buccata, Sandro. Faccio una barretta da 30 centimetri. E l'ho tassellata al muro sotto la scrivania. E ci sono tutti i giallo-verdi attaccati alle radio, capito? Il ramo è meglio comprarlo a barrette così, che comprarlo già fatto. Va carteggiato. E poi attaccate i giallo-verdi. E vedrai che i microfoni non fischiano. A me non fischiavano, comunque l'ho fatto per sicurezza le radio, per le elettrostatiche. Visto che il rame scarica bene, l'ho fatto, tassellato il muro qua. Oramai siamo addirittura all'arrivo. Soltanto l'altra radio e poi abbiamo finito. Non l'hai vista la L, Sandro? Ho cambiato, messo la L completa, tutto a posto. Va bene, comunque quello è l'unico sistema che ci vuole per radio come le nostre, non certo per i baracchini, che non hanno nessuna protezione, ma per radio così ci vuole per forza quel cavetto, altrimenti i microfoni di tavola fischiano. E io ho capito, io già lo so, non è che si può pretendere più di tanto. Vabbè, va, no, già ci vuole la massa, ci vuole. Più tranquillo, più a posto. È tutta un'altra cosa. Va bene, ok. Allora, mi devo organizzare per domani. Domani, giornataccia. Vado, Claudia, ti lascio. O proseguo, dai, ce la risentiamo. No, ma io stavo guardando la televisione, ti ho sentito chiamare e sono venuto a risponderti. Comunque quella via non è dove ti ho detto io, è su in alto, via Grazia Verenda, capito? È la traversa dopo la chiesa del Cuore Immacolato, la prima traversa a destra dove c'è il tabacchino, all'angolo col tabacchino, quella lì è la via che stai cercando. Scusa un attimino, devo sempre andare lì da, come si chiama, salire lì dal mercato, via Umberto, lì? No, quando passi via Pascoli, non ci arrivi al ponte, dove c'è la farmacia lì, giri a sinistra, quella lì è via Grazia Verenda. E sali sino in alto c'è un semaforo, attraverso il semaforo la prima destra via Maronia. Ok, Latte Dolce, salendo da Latte Dolce lì via Pascoli, e ho visto, mi sembra averla vista quella farmacia che fa d'angolo, quindi devo salire lì fino a trovare il semaforo, giusto? Siccome arriva il semaforo, superi il semaforo, la prima vetta via Maronia. Va bene, ok, dai. Ti lascio, dai, ce la sentiamo, ciao. Ciao, ciao, domani. Se hai problemi chiamami, tanto già sono in zona, io già sono a Sassari, non c'è problema. Chiamami se hai problemi. Ciao, buonanotte, alle prossime, ciao anche Gianluca. Ci sentiamo, vai. Ehi, ciao Claudio, ciao Sandro. Una cosa Sandro, volevo dire prima che stavo rispondendo a Giampaolo, un bel casino del baracchino abbiamo fatto. Volevo dire Sandro, ma come devo chiedere di questa cosa qua? Una massa per le antenne? Allora Gianlu, visto che tu non hai per tutti quegli apparati che c'hai tu, non hai una massa, capito? Non hai una massa, in effetti tu quegli apparati non ce l'hai a massa. Ti devi fare quello che ti ho detto io, da giù dove c'hai il garage, una bella zanca, poi ti porti su un cavo di massa giallo-verde, arrivi su, ti prendi una di quelle piattine, il rame e colleghi tutti gli apparati a massa, perché ci vuole Gianlu, tu non ne hai, tu stai andando senza massa. Sì, ma stavo dicendo, capito qua del riscaldamento, i tubi vecchi che c'erano qua in coso, quelli lì vanno a finire giù dove stiamo entrando nella caldaia, amico. E nella caldaia lì è tutto quanto con i tubi. Lo so Gianlu, però non è... Allora, la vera massa è la zanca a terra, il palo a terra, il capo e così via. Lì, te lo dirà anche Claudio. Sì, Gianlu, non manca lunga caldaia, no caldaia. Tu fai come ha fatto Sandro, come ho fatto io. Ti prendi una piattina di rame, te la fuori, se non è forata, le fai tutti fuori. La sei... E poi la tascelli al muro con dei gommini che distanziano la piastrina in rame dal muro, qualche centimetro, capito? E poi li attacchi tutti gialli verdi, come c'ho io, come c'ha Sandro, io ho fatto così. E vedrai che non hai problemi, né di massa, rientro di RF, scosse varie, fischi di microfoni, perché il rame si porta via tutto. Mai attaccare così lontano, vicino, io ho cavetti da 30 cm, 20 cm, e sono collegati al muro, a questa piastrina in rame che c'è attaccata al muro, forata al muro proprio, capito? Di fuori ce ne saranno una quindicina, 15-20 fuori, 15-20 fuori, se no quella indebolisci troppo, e ti attacchi tutto lì, e basta, e si è arrivato senza mettere cavi lunghi, eccetera, eccetera. Ma questa piattina quanto vuole spessa o grande? Cosa vuole spessa? Non c'entra niente lo spessore. Ho abbigliata da gocciolo, prenderà fine, insomma, che non pieghi, che sia un rame un pochino robusto, tipo quello che ho io, quando viene lo vedi. Lunga 30 cm, 20 cm, dipende da quante masse ci deve attaccare. Quello sì, quello è vero. No, ma cosa è quella di rame? Ma la prendono, sì. Sono piattine di rame. Questi rami tutti lunghi, e mica il rame serve anche a saldare, mi vendono le bacchette di rame, le bacchette. Ci sono le bacchette e le piastrine. Capito? Le piastrine servono per tappare i buchi grandi, uno che salda il rame, e le bacchette servono per sciogliere e saldare. Quindi tu prendi la piastrina, il rame, ci sono da 10, 20, 30 cm. Ti prendi la misura che ti serve e te la fuori tutta, a distanza di un centimetro uno dall'altro il foro, ti fai fuori che ti servono da 6, non li fare più grandi. E poi ci attacchi gli occhielli con il cavo giallo verde che arriva dalla tua radio. Quello è il lavoro più bello che esiste al mondo, capito? Quello è il lavoro che vuole fatto sulle radio della storia. avanti, loro senz'altro ce l'avranno, te la prendi, ti prendi il palo, ti organizzi, cavo tutto quanto, quando sei pronto mi chiami e lo facciamo assieme. Sì, ma è meglio che andiamo a occupare le palle una cosa, per occupare di una cosa o un'altra. Dai, dai, tanto io penso che questo lavoro qua, magari più presto possibile farlo questa primavera. Ehi, già lo so, però Gianlu, sta primavera tu stai usando gli apparati senza massa e quegli apparati vogliono la massa, è fondamentale. Quello è vero, magari ci faccio la predisposizione qua della massa delle radio, no? Collegati per le radio, dopo lasciamo all'ultimo la discesa, col paletto. Lo so, vedi tu, vedi tu. Cioè, senza massa con le radio ti possono causare solo danno, basta. Ma la massa bisogna prenderla anche per esempio dagli alimentatori, dalla corrente dell'alimentatore, quella che c'ha il polo giallo verde appunto a massa. Anche quelli bisogna mettere lì dalla discesa. No, ma che cazzo metti gli alimentatori a massa? Gli alimentatori stanno già lavorando a massa. Perché le metti la massa? La massa la metti alle radio, l'alimentatore già c'ha la corrente, quindi c'ha un positivo, un negativo e un neutro, no? Chiamiamolo così, quindi quel neutro è la massa, perciò il trasformatore sta già lavorando a massa, quindi cosa te ne frega? Devi mettere la radio a massa, che è quella che ha più pericolo, è più esposta al pericolo, sia per la ricezione che per la trasmissione. Sì, dovrebbe essere i tre fili normali, no? Quello generalmente blu, marrone lì e dopo c'è questo giallo-verde che appunto è massa. Quando trovi il blu, attaccati al blu. Taglio Gianluca, giallo-verde, il blu è neutro. Capito, il blu è neutro, non ti attaccare al blu cazzo e poi vengo di scintille, dai occhi. Giallo verde, però la cosa più ideale, più sicura, tutto quanto, palo a terra e cavo di massa che ti arriva. Claudio, vai tu. Cazzo Gianlu, come vai a prendere all'aria, cara? Fase neutro e massa, no? La massa è sempre giallo verde, Gianlu. Sul bipolare il giallo verde non c'è, sul trifase c'è il giallo verde, quindi tu stai lavorando con la trifase di no, perciò non credo che ti hanno fatto di pianto con bipolare, no? Non lo so, veramente, perché qua devo appunto veramente controllare, perché c'è una certa età, può darsi che non c'era questo, che non abbiano messo il capo di massa nell'impianto. Se non sei dubbi a lui, cosa vuoi ti dica? Io qua c'ho tutte le prese con giallo verde, ma non me ne frega niente, quindi gli alimentatori lavorano già a massa, io mi sono messo a massa tutte le radio. Ho fatto proprio oggi quel lavoro, capito? Perché mi ero stufato, dovevo fare. E siccome noi usiamo quei tipi di trecci lì, sono preso una bacchetta in rame, l'ho tutta forata di un'officina, tagliata a misura 30 cm e l'ho tassellata a muro con i distanziatori in gomma, quelli in gomma già fatti a misura, con le viti e via. E poi gli occhielli con tutte le trecce di massa che arrivano dalle radio, tutti attaccati lì. Ma ce ne ho fuori ancora da utilizzare, non c'è problema. Anche gli amplificatori ho messo, gli amplificatori sì, perché avendo le valvole, quindi l'anodica, può scaricare meglio che scarichi sul rame che scarichi sulla carrozzeria, sulla cassa dell'amplificatore. Capito? Quello sì. No, io invece volevo fare un'altra domanda. La sezione del cavo di discesa, appunto, di questa massa, quanto deve essere sufficiente? dall'antenna all'applichetto, stai dicendo? Sì, una volta che io attacco tutta la piattina qua, che faccio tutte le radio a massa, devo scendere con una, non è che poi a radio farà una discesa, no? Avrà già unificato la cosa e farlo farà. È un altro zero, Marco. Quelle per le radio le prendi da 2,4 mm, quindi giallo verde da 2,4 mm. Quello invece in uscita a scaricare a terra, quello lo prendi da 6,4 mm. Ok. Oh, Claudio, quello. Ti ricordi quando sei sceso giù da me che abbiamo fatto quello spezzone, quello blu? Beh. Chi su che anda? No, giallo verde, cazzo, invece giallo. Giallo verde è un cavo specifico. Un cavo specifico per fare massa, per la freccia di massa, si usa solo quello. Il nero no, il nero, il blu non si usa, neanche il marrone. Perché il filamento interno è molto più fine rispetto al giallo verde. Bisogna prendere giallo verde, si chiama giallo verde, capito? È più apposito per la massa, è il colore massa quello. Ho capito. No, ma aspetta, mi sono sbagliato, volevo dirlo a Claudio, ma Claudio, a Sandro. Sandro, ti ricordi quel capo che abbiamo fatto lo spezzone blu? Sì, già me lo ricordo, però. Però è giusto come stava dicendo Claudio, quello da 6 mm giallo verde, capito? Che lo fai partire dal palo in terra sotto, dove l'abbiamo vista assieme noi. Parti da lì, sali su e te ne entri dentro. Dato c'hai certi rassimoli, ti viene anche bene. Arrivi lì e poi ti prendi questa piastrina lì dove ci attacchi tutti i cavi che parti dall'apparato, arrivi alla piastrina, va bene quello da 2,5 mm, giallo verde da 2,5 mm, più sottile è meglio è, capito? E poi via. Quando te l'ho detto, preparati tutto, quando sei pronto me lo dici e lo facciamo. Allora Balletto deve attaccare un motore piccolo. Giallo, molto piccolo, lì adesso c'è il cemento, scarzi un attimino, vedi un po' che cosa c'è sotto, il paletto almeno lo devi far entrare almeno un 50 cm, ci devi picchiare dentro, far entrare almeno un 50 cm, non è così, Claudio? Allora basta prendere uno di quella specie di tassellatori con la punta che fa trivela. Sai quello tipo butta trivela, se scava lì, fa se scava? Sì, anche sì. Io non ce l'ho. Allora, il trapano, io ho una punta da 50 cm, che mi sembra che sia una punta da 14. Però il palo mi sembra che sia di larghezza. Non me lo ricordo adesso, se è un 5 centimetri di larghezza. Cosa? Claudio, ci sei? Sì, ho detto cosa? Ho detto il palo a terra, almeno 50 centimetri lo deve far entrare, giusto? No, tutto lo deve far entrare, non 50 centimetri. Tutto. Deve mettere l'occhiello, attaccarlo al picchetto e buttarlo dentro la terra, dentro, perché si chiama massa a terra. Attacchi un picchetto e deve entrare a terra. Deve toccare la terra il picchetto. Eia, questo sì, ma siccome quei picchetti che vendono sono quasi un metro, almeno io in campagna per dire l'ho fatto entrare e vabbè. Più di 50 centimetri, quasi tutto l'ho fatto entrare. E poi vabbè, l'occhiello con lo circo capo giallo verde 6 mm, bello stretto, gli ho fatto un po' di buco tutto quanto e poi ci ho messo il sale. Vabbè, l'importante è che scenda sotto abbastanza, che non sia molto molto fuori dalla terra, capito? Altrimenti non scarica. Sì. sì. Eia, perché diciamo la sua funzione è rimanere all'umidità, capito? Lui deve rimanere all'umidità, deve rimanere. Oh, Gianluca. E se la terra non la trovo lì, non ne so io dopo quanto io sto bucando il cemento. Quello che ti ho detto, devi bucare il cemento per vedere un po' che cosa c'è sotto. Magari ci sarà un vespaio, magari ci sarà, e non lo so, bisogna vedere com'è. Ma no, sai come te. Va bene, devi fare un massaggio, dai, devi fare un massaggio che te lo può permettere. Bravo signori, dai. Se no, non riesco più a concludere. Dai, vi saluto. Oh, Gianluca, quando vuoi, lo facciamo, dai. Ciao Claudio, ciao Gianluca, alle prossime. Ciao a tutti e due, dai. Anch'io spengo e me ne vado a vedere un po' TV, poi andando a domani lo fa questo. Ciao a tutti, buonanotte. Comunque Gianluca, quando vuoi, che me lo dici, o scendo io lì e lo verifichiamo assieme quello che c'è da fare, e se no te l'ho detto che c'è da fare, e se no sei via Gattami, passo e chiudo. Sì, no, già non è quello che c'è, dai, già lo guardiamo assieme, ok, dai, buon QRT, sentiamo direttamente domani, dai, ok, buonanotte a tutti e due. Ciao Gianluca, buonanotte anche a Sandro, ciao. Ciao, alle prossime.